Dottoressa, eccoci qua cari amici, benvenuti a parola mia. Visto che fa freddo, è inutile che chiamare un mare, che mi sono rotto un po' i coglioni. Comunque, il mio quiz sulla lingua italiana. Siccome quando voglio in giro becco sempre non so che botte, e deciso di tenere vicino a me a Maria Francesca, evitando di pigliare botte, stiamo qui in studio di Tele Europa Network. Buonasera a tutti. Buonasera, ed ecco per Francesco da Paola Grumenghione. Buonasera a tutti! C'è che già le batterie. Che invece un bellino per questa buona trasmissione. Vai per Francesco, pure il fattore. Italia! Italia! Chi sa la canzone canta mia! Basta, basta, per carità, comunque per le scorse. Meno retello se vuoi entrato, ma ecco finalmente abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, non ci sento niente. Pronto, signor Pino. Buonasera, signor Sundipe di Vigliano. Oh, tutti lo saluto con chi sei qua. Signore, adesso, quando ne avete? 98. E allora, signorina. Comunque, ancora per Ferge, dedicaci una canzone alla signora, io. Voglio sposarti tra 100 anni. Ti immagini come un signo tra 100 anni? Vabbè, basta per carità. Se no, vecchia memoria sovrapposta. Allora, signora, la domanda facile facile di Maria Francesca. Vai, Maria Francesca, con la domanda. Turista, turista. Allora, e il presidente del consiglio è donnaiolo. Chi è? Andiamo, signora, facile facile. Era, è difficile. Aspetta. Ah, sì, Marico, è Vittorio Emanuele III. No, signor! Comincia con la B! Bettino Crax! Sì, Adamo Deva! Berlusconi, signor! Ai figli, che ne sa ci settori moderni? Io manco mai la vita a televisione! Ma perché mi passate di telefonato? Vabbè, basta, basta, non è... E' a fanculo, eh!